Schiaccio rec e siamo online. Virgi, sei? Ciao a tutti, vi ricordiamo che il singolo Fred Schiaccia Rec è disponibile su tutte le piattaforme digitali e potete scaricarlo e ascoltarlo ogni volta che volete che Fred schiacci rec. Esatto. Come esatto. Ad esempio adesso. l'ho schiacciato. Oh, incredibile. Vedi? Sono la le 15.04. Può essere utile. Grazie Virgi, infatti ti ringrazio per farmi da supporto. Comunque, dicevo, sono le 15.04, siamo in onda con la quarta puntata di Notizie Virali. Oggi ospiti con noi Silvia Boccardi di Will e Andrea Colamedici di Tlon e parleremo di media e bias cognitivi. Virgi, vuoi dire qualcosa tu per introdurre la puntata? O l'ho introdotta abbastanza bene? No, beh, hai una voce molto radiofonica, ti volevo dire questa cosa. Anche cacofonica, credo. Sì, è una voce sicuramente fonica. Esatto. Niente, volevo dire che Silvia Boccardi innanzitutto è nostra amica, certo. Prima di essere una bravissima giornalista. Anche Andrea Colamedici, amici veri, anche... ricordiamo. E ricordiamo che noi siamo amici e amiche delle persone. Comunque, prima di andare live con il resto della puntata, con il succo della puntata, sì. Volevo introdurvi questo remix incredibile di qualcosa che è successo questa settimana. Questo guaglione non lavora col favore delle tenebre. La pelle si sta aspettando, la guarda più un nodo, è difficile andare giù. Grazie al Premier. Come mai abbiamo deciso di dedicare un'intera puntata al bias cognitivo? Perché le comunicazioni che stiamo ricevendo in questo periodo, mentre siamo tutti chiusi in casa, arrivano sostanzialmente da due fonti. La prima sono i media, e nei media ci sono i telegiornali, ci sono le famose conferenze stampa che sono diventati degli appuntamenti fissi delle nostre giornate, mentre sui social c'è la solita montagna di dati, molti dei quali sono dei dati sfalsati e dei dati fuorvianti che in questo momento in cui siamo già tutti quanti super sensibili e super portati a drammatizzare quello che sta succedendo e in più non vediamo effettivamente cosa c'è fuori dalla nostra casa, non siamo autorizzati a esplorare con i nostri stessi occhi, questo provoca una crasi, provoca, cioè, un salto cognitivo tra quello che vediamo intorno a noi, che sono le nostre mura di casa di solito, e quello che in realtà sta succedendo. Mettiamoci anche che il Parlamento non si sta riunendo e non abbiamo notizie di discussioni pubbliche a cui possiamo assistere, ma tutte le discussioni a cui assistiamo sono o quelle in televisione oppure quelle che avvengono sui social. E quindi, Fred, parliamo quindi niente. Hai introdotto benissimo, anzi hai specificato meglio quello che ho detto io, e diciamo che per la prima parte, adesso tra una decina di minuti chiameremo Andrea con cui approfondiremo appunto i bias cognitivi da zero, insomma partendo da zero, diciamo che è importante per introdurre un po' i bias cognitivi è importante renderci conto di come funziona anche la nostra mente e di come funziona la percezione, la nostra percezione delle cose, appunto per diciamo smascherare quei meccanismi che anche tu hai descritto e riuscire ad arrivare poi al succo delle cose e, non, e riuscire a diciamo decifrare con pieni strumenti e pieno senso critico la realtà e non essere invece soggetti alla realtà stessa, quindi essere noi padroni di quello che ci arriva, insomma, dei messaggi che ci arrivano. Sì, oppure non dover decifrare della realtà che non è una realtà. Esatto. Allora, Virgi, ho una sorpresa in realtà per te, che non era, preparata, che è la visto che, insomma, noi ricordiamo che uno non lavoriamo col favore delle tenebre, insomma, perché cosa è successo in questa settimana, visto che oggi parliamo di media, è interessante vedere anche cosa è successo in questa settimana in televisione, insomma, sui giornali, sui social, quelle che sono appunto le fonti che anche tu citavi. E visto che abbiamo mandato un remix del nostro Premier Conte, è giusto anche mandare una controparte e ascoltiamo cosa c'ha a dirci il nostro amico di cui non possiamo fare nome. Oddio, verificabile su internet da tutti voi. Sono arrogante, presuntuoso e bugiardo. Sta finendo il tempo di respirare e buona Pasqua a tutti. Ricordo che sto provando a truffare gli italiani. Leggero, simpatico, camuffato. Nelle ultime ore sono impazzito. Di più, prendo delle decisioni alle spalle degli italiani che pagheranno i nostri figli. Conte cammina sulle acque, ma questa è la verità. Insomma, siamo alla follia. La pazienza vostra è finita. Mi fermeremo, promesso. Perché Salvini esagera ad attaccare l'Europa. Salvini dovrebbe essere più moderato nei confronti dell'Europa. Ragazzi, Salvini non ha capito nulla. E Giuseppe Conte si è accorto che Salvini così non va. Ebbene, perdonatemi, non so se faccio bene o faccio male, ma lo dico. Lo dico, mi attacco al cazzo, chi se ne frega. Allora evidentemente siamo brutti, cattivi, sovranisti, fascisti, italianisti, leghisti, razzisti, egoisti. È chiaro ed evidente che il Salvini non ha senso, non funziona. E a virus sconfitto sarà nostro dovere interrogarci sul futuro e sull'utilità di Salvini. Grazie a questa replica interessantissima. Spero che l'abbia sentita anche tu, Virgi. Sì, io non sono d'accordo sul nominare così tante volte quel nome, che poi se lo nomini quattro volte davanti allo specchio arriva fattore. Verissimo, l'ho fatto perché l'ha fatto anche il nostro Premier, quindi volevo anche un po' entrare in questo argomento, insomma, che c'è stata tutta questa discussione su se ha fatto bene il Premier a utilizzare la TV di Stato per fare chissà quale contropropaganda e bla bla, quindi insomma, giusto per scaldare un po' le cose. Oltre a questo, cos'è successo? Abbiamo visto su vari canali questi video incredibili, io li commenterei come incredibili, non so tu, Virgi, di gente che veniva inseguita da elicotteri della Guardia di Finanza. Sì, praticamente siamo nel Far West. Scusa, sto mangiando la porta asciutta nel frattempo. Grande. Dopo spieghiamo anche perché oggi siamo un po' di corso, soprattutto tu. Mando una canzone prima di sentire Andrea. I run the risk of losing you, and that's worth. Rieccoci. Allora, Virgi, prima di parlare con Andrea, che è già in diretta con noi, però non ho ancora messo il microfono, vogliamo mandare l'audio di uno dei famigerati inseguimenti in elicottero? Ma certo, eccolo qua. Sull'elicottero della Guardia di Finanza, che è proprio lì a fare cosa? A controllare. Ecco, Barbara! Allora, il ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando. Quindi ora lo stiamo inseguendo. Non so se si può vedere, i finanzieri hanno iniziato a correre perché lui si sta allontanando tra le case. Eccolo lì. Vedi, Barbara sta. Andrea inquadra e giù ci sono altri poliziotti che stanno bloccando altre persone. Siamo sull'elicottero della Guardia. Eccoci qua. Madonna, fantastico, fantastico. Sì. Allora. Come quegli inseguimenti, no? Tipo quando ci sono i terroristi negli Stati Uniti, l'inseguimento di una bomber, non so. Sì, esatto, che... però solo con un povero che stava andando un pochino su un uomo, poi non ho visto bene. Credo che si chiamasse Federico Fumagalli. Esatto, stava andando a correre in spiaggia. Ho visto bene questo. Le famose spiagge di Inzago. Comunque, torniamo a noi e abbiamo in diretta con noi, e adesso gli apro anche il microfono, Andrea Colamedici di Tlon. Ciao Andrea! Ciao Andrea! Allora, spero che tutti ci sentano bene, mi sembra di sì, insomma. Abbiamo introdotto questa puntata per riassumere anche te sui bias cognitivi e sui media, facendo un po' una mini rassegna stampa di quello che è successo quest'ultima settimana, e ci siamo un po' chiesti, insomma, per parlare di bias cognitivi, quale fosse anche la percezione, insomma, perché fosse importante anche la percezione che noi abbiamo di quello che avviene e delle informazioni che ci vengono date. Però, facendo un piccolo passo indietro, con te vorrei chiederti subito che cosa sono i bias cognitivi e come funzionano. Sì, i bias cognitivi sono dei costrutti che vengono costruiti fuori dal giudizio critico, oppure possiamo dire sono un modo di distorcere la valutazione causata dal pregiudizio, in maniera estremamente più... cioè possiamo dire che i bias cognitivi sono quel modo con cui noi falsiamo la realtà. Siamo convinti che la realtà sia oggettiva, siamo convinti di essere oggettivi noi, ma in realtà nessuno di noi lo è, e quindi ci rapportiamo all'esistente falsandolo, modificandolo, per renderlo più comprensibile, più manipolabile, per illuderci che sia controllabile. E di conseguenza esistono tantissimi bias che costellano la nostra esistenza. Quali sono molto, i più comuni? Questo concetto tra... ce ne sono tantissimi, tra cui ad esempio il bias di conferma, che è uno dei più diffusi, soprattutto in ambiente complottistico, ma non solo, nessuno di noi è immune ai bias. Diciamo che quel bias di conferma ci porta ad essere d'accordo con persone che la pensano come noi e a tendere di evitare tutti quelli che invece non la pensano come noi. E dico sempre, se vediamo un video che conferma la nostra tesi, per dire, che ne so, sulla Terra piatta, noi diamo un'estrema veridicità a quel video, mentre invece guardiamo 40 video sulla Terra tonda, noi non gli facciamo, non prestiamo nessuna attenzione. Lo stesso discorso vale per i bias di gruppo, per esempio, che ci porta a pensare che tutto quello che otteniamo dal nostro gruppo è merito, mentre invece quello che gli altri ottengono è sempre figlio del caso, della sorte o dell'inghippo. Diciamo che di bias ce ne sono veramente centinaia, perché ci ingabbiamo in tantissime maniere. Tutto si fonda sull'euristica, cioè sulla nostra capacità di creare scorciatoie per rispondere il più velocemente possibile, nella maniera, come dire, più coerente e complessa alle sfide della realtà. Di conseguenza spesso ci ritroviamo a prendere delle decisioni in breve tempo, lo facciamo sulla base di pregiudizi, talvolta ci dice bene, talvolta ci dice male, ma si può educare tutto questo. Infatti ti faccio questa domanda. Allora, al di là del appunto che ne esistono un sacco, eccetera, eccetera, siccome sono, diciamo, scusa la semplificazione, poi correggimi se sbaglio, diciamo che sono dei bug che noi stessi produciamo, poi correggimi tu, però ti chiedo se è vero che, insomma, siamo noi stessi che produciamo questi meccanismi inconsapevoli, insomma, è il nostro cervello che lo fa. Come facciamo a riconoscerli e soprattutto a difenderli? Il primo passo è capire che ne siamo tutti affetti, che nessuno di noi non ha bias, siamo tutti pieni di bias. E uno dei bias a cui bisogna stare più attenti è quello che ci porta a credere di essere immuni dai bias. Esatto. E di sapere cose che non sappiamo. L'effetto Dunning-Kruger racconta proprio questo, per dire. Cioè racconta che più sai, più ti accorgi di non sapere. Meno sai, meno ti accorgi di non sapere. È il principio del so di non sapere socratico. Che fondamentalmente ti dice, se tu non hai nessuna idea di come si suona il pianoforte, per dire, appena ti metti lì e suoni e per sbaglio esce fuori do mi sol do do sol mi, ti senti Mozart e dici ammazza, io in 5 giorni qua imparo il pianoforte. Se invece tu conosci davvero il pianoforte, sai benissimo che c'è tantissimo da imparare. L'altro giorno ho intervistato Dardast, che è uno dei produttori e musicisti più interessanti in circolazione, e mi diceva, no, ma io sono 20 anni che studio pianoforte e adesso sto continuando a rivedere i miei pezzi e li sto studiando per renderli sempre più come li vorrei e mi accorgo di non essere in grado. Quindi questo porta anche spesso a far parlare le persone mediocri e a far tacere le persone interessanti, perché i mediocri non si accorgono di non sapere le cose e si sentono in diritto di parlare. Le persone interessanti e competenti, riuscendo a vedere che il sapere finisce molto lontano, non si sentono in diritto di parlare, spesso stanno zitti, e questo è uno dei problemi per cui noi spesso ci ritroviamo in un mondo che è pieno di persone mediocri che spiegano cose alle persone interessanti. Chiarissimo. Senti, approfondisco ancora questa relazione tra, diciamo, informazione, bias, eccetera, eccetera, chiedendoti se appunto questi meccanismi che hai spiegato molto bene esistono in tutti noi e, diciamo, sono anche cioè, prodotti, insomma, da noi. C'è magari, secondo te, chi, vedendo questi meccanismi, conoscendoli e, diciamo, padroneggiandoli anche, potrebbe utilizzarli contro noi, cioè a suo favore per, non so, per esempio, fare propaganda per diffondere, diciamo, complottismi, eccetera, eccetera. Cioè, qual è la relazione che c'è magari tra un certo tipo di informazione e i bias cognitivi e come invece potremmo, o chi fa informazione potrebbe, utilizzare questi bias invece in maniera, diciamo, buona? Noi siamo vittime di un'informazione che più che informarci ci titilla i peggiori istinti e lo fa attraverso i nostri bias, attraverso le nostre defezioni, attraverso la nostra incapacità di mettere in fila le cose. È come se noi vivessimo all'interno di un panorama in cui è difficile orientarsi, è tutto a tinte pastello e abbiamo bisogno di marcatori, come li definisce Damasio, cioè di qualcosa che risalti davanti ai nostri occhi. E allora molti influencer politici, più che politici in sé, molti arruffapopolo, sfruttano i bias cognitivi delle persone per veicolare i propri messaggi, molto spesso messaggi che non corrispondono del tutto a una visione democratica della vita. Proprio perché attraverso il bias, se sono una persona senza scrupoli, io ti manipolo con molta più facilità, e ti manipolo con più facilità proprio perché non voglio aiutarti nel capire, voglio semplicemente farti stare più tranquillo. La maggior parte dei complottismi sono forme di consolazione che di fronte a un mondo troppo complesso, incomprensibile, enorme, ti dicono no, tranquillo, non sei tu che sei scemo, sono gli altri che sono stronzi. E questo è pericoloso, perché crea una società in cui nessuno viene spinto a pensare davvero, a sviluppare la capacità di raziocinio, ma vengono tutti invece spinti a dubitare a monte di qualunque informazione. Ma non in questo modo sviluppando un pensiero filosofico che mette in campo l'arte del dubbio, ma creando invece una realtà alternativa, una verità alternativa a cui aderire ciecamente mantenendo inalterati i propri bias. Certo. Allora, ti faccio l'ultima domanda e poi chiedo alla mia collega Virginia se ce n'ha anche lei. Anzi, mi scuso con lei perché ho un attimo dei problemi audio nel sentire lei. Detto questo, ti chiedo, visto che sono... Allora, abbiamo detto che sono molto diffusi, che è anche possibile che vengano utilizzati contro noi e comunque a prescindere che sono dei meccanismi che noi stessi produciamo, che il nostro cervello produce, quindi comunque che sarebbe interessante riconoscere. Non è facile però farlo per tutti, insomma, tu magari hai studiato adesso, non so, psicologia o altre cose che magari ti consentono di riuscire a riconoscerli e riuscire anche a spiegare come funzionano, ma come facciamo noi, come faccio io per esempio a studiarli, riconoscere, sapere quanti sono. Hai dei testi di riferimento che mi puoi consigliare o un qualcosa, insomma, qualche referenza da lasciarmi che posso andarmi a consultare e che tutti possono andare a consultare per provare a combattere questi meccanismi? Sì, allora, il primo passo da fare è sicuramente quello di osservarsi e di non darsi per scontato. C'è stato uno straordinario psicologo che si chiamava Harold Garfinkel, che era un genio, perché lui voleva mettere in luce dell'Università della California di Los Angeles. Diceva: tutti noi ci guardiamo l'uno con l'altro e diamo per scontato che tutti viviamo nella stessa realtà e che abbiamo un patto sociale che diamo per scontato, ma in realtà non è così. Provate ad esempio, gli suggeriva, ad andare per le strade. Si chiamava etnometodologia questo il suo metodo, e questi esercizi erano esercizi ed esperimenti di rottura. Andate per strada, fermate una persona e chiedetegli che ore sono, lui gli risponde a mezzogiorno e tu gli chiedi in che senso, e quello impazzisce, letteralmente impazzisce, perché non si aspetta che tu possa entrare in relazione con lui non dando per scontato tutta quella parte di mondo che invece noi diamo per scontata. Questo è il più grande insegnamento della filosofia, cioè quello di mettere in dubbio il mondo, quello di non darlo per scontato, ma d'altra parte non fermarsi a quel punto, ma voler andare più in là, guardare una forchetta e dire: che cos'è una forchetta? Perché la forchetta ha quattro punte? Perché è fatta così? È che sono strumenti di sopravvivenza, alla fine, i bias cognitivi, perché... La chiamata è stata interrotta per esaurimento... No, raga, ho finito il credito, incredibilmente. Ho finito il credito in diretta. E non ho finito anche le chiamate gratuite, Virginia, mi spiace perché ho interrotto Andrea a parlare. No, vabbè. Lo so, è il bello della diretta. Ti giro il numero, vuoi chiamarlo tu per favore? Ma certo, ma perché la vita ci sorprende sempre con nuovi problemi tecnici. Eh sì, certo. Girami il numero che lo chiamo. Giro il numero, io. Mando una canzone, cioè questa cosa qua è incredibile, così almeno lo sentiamo e concludiamo con lui il discorso. Ok, fantastico. Siamo riusciti a riprendere la linea, incredibilmente, con Andrea, sì. Con cui mi scuso ancora per aver finito il credito, mortacci mia. E vai tu, Virgi, allora. Ma non scusarti mai, Fred. Comunque queste cose rendono viva la nostra trasmissione. Stavo dicendo ad Andrea che noi vivevamo tutti nel bias cognitivo che tu avresti avuto credito illimitato e invece hai una ricaricabile. Ho finito le chiamate gratis, sì. hai finito le chiamate gratis. Comunque sia, stavamo parlando dell'importanza di farsi domande, no? Poi Andrea, essendo un filosofo, i filosofi sono tutti fondamentalmente degli scettici, ed è molto importante anche pensare ad approcciarsi al mondo con un approccio scettico, appunto, quindi ponendosi delle domande e ponendo anche agli altri delle domande, anziché tentare di dialogare dandoci sempre delle risposte quando anche queste risposte non ce le abbiamo. Volevi finire di parlarci di questo, Andrea? Sì, dici bene, nel senso che la maggior parte di noi, quando fa un dialogo e pensa che domandare sia molto spesso obbligare l'altro a rispondere. Invece domandare anche etimologicamente ha a che fare con il sollevare un quesito e guardarlo insieme. È tutta un'altra roba. Noi siamo ossessionati dalla risposta, mentre invece il gioco sta nella domanda. Ne parlava Luciano De Crescenzo quando diceva l'importanza di porre punti interrogativi alla fine delle cose. È come se il filosofo fosse qualcuno che ha in tasca punti interrogativi e li metti. Dicevo, tapirula, perché si chiama tapirula? Forse il tappeto rotolante. La porta, perché la porta è quadrata? Ci stai dicendo quello davanti. O lo sgabello, perché lo sgabello ha quattro zampe? Perché? E domanda. E capisce che quello che puoi imparare dalla vita passa proprio dalle domande, passa dal mettere in questione le cose. Per finire di rispondere alla domanda di prima, Daniel Kahneman, Pensieri lenti e pensieri veloci, è secondo me un libro che spiega nella miglior maniera in assoluto la questione dei bias cognitivi, che fa capire quanto noi viviamo divisi tra un pensiero lento ed un pensiero veloce, tra un pensiero riflessivo ed un pensiero immediato, che questi due pensieri si intersecano tra di loro e talvolta fanno delle teorie perché producono questi famosi bias. Quello che noi dobbiamo fare è imparare a giocare col mondo, non farci bastare il è così, basta, stacce. Invece no, si tratta proprio di capire che il mondo non è affatto noioso, ma in realtà aspetta soltanto il nostro punto interrogativo per fiorirci davanti. Certo, che poi è un approccio molto infantile nel senso bello della parola, no? Quando siamo piccoli noi facciamo un sacco di domande e poi via via crescendo smettiamo di fare tutte queste domande e invece se... Perché smettiamo? Il problema è perché smettiamo? Smettiamo perché gli adulti non ci rispondono oppure ci danno delle risposte chiuse. E noi gli chiediamo, esiste Dio? E mamma, se è credente, o papà, se è credente, dice sì. O se è ateo, dice no. Non è che ti aiutano a porti la domanda. Ti mettono il poster con Gesù o con il nulla nel varco che tu avevi appena creato. Cioè tu hai scavato con la domanda un buco nel muro per uscire da questa prigione mentale in cui ci troviamo. E se io vengo lì e ti do la risposta, ti sto appiccicando sul varco che hai appena creato, il poster con Gesù o con nessuno. Non cambia nulla, io devo aiutarti invece a tirar fuori quella domanda, devo aiutarti ad abitarla insieme, a stare in silenzio con te nel contemplarla. Poi che contemplazione è una parola bellissima, magari in giro la racconto perché è pazzesca, io mi emoziono di volte. Vuoi chiudere raccontandoci che cos'è Tlon e che tipo di lavoro state facendo in questi giorni? Sì, questi giorni poi Tlon è cambiata, nel senso che Tlon nasce come libreria teatro, come casa editrice, come progetto filosofico. In questi giorni abbiamo tirato su due maratone filosofiche, due maratone in cui abbiamo invitato, nella prima, i più interessanti intellettuali, pensatori e pensatrici italiani. Nella seconda sono venuti da tutto il mondo, quindi da David Quammen, quello di Spillover, che aveva previsto, meglio che ha raccontato la previsione degli scienziati sullo Spillover, cioè sul passaggio del virus da un pipistrello all'umano, ormai diversi anni fa, a Ben Asayag, a tantissimi altri. Cioè il tentativo è proprio quello di vedere che in realtà devono dialogare per forza tra di loro, accademia e mondo pop, far capire che abbiamo necessità oggi più che mai di unire le forze e di reinventare il mondo, non limitarci a ricostruire, perché c'è un meme che gira in questi giorni a cui sono particolarmente legato, che dice non voglio tornare alla normalità perché la normalità era il problema. Allora accorgerci che la normalità è il problema è uno degli scopi di Tlon, che è anche molto attivo sui social, io e Maura, mia moglie, cioè siamo due divulgatori filosofici e raccontiamo attraverso podcast su Audible, che si chiama Scuola di Filosofia, fine l'arte di vivere era l'estetica dell'esistenza, era far brillare la vita. Siamo un po' offesi e Fred che non siamo stati inclusi nei più grandi intellettuali dell'epoca contemporanea, però a parte questo sono certa che state facendo un ottimo lavoro, io vi seguo e continueremo a seguirvi e tra l'altro la nostra prossima ospite Silvia Boccardi ha intervistato anche lei Quammen per Will. E quindi insomma diciamo che c'è un filo che ci lega tutti, come dice tra l'altro lo stesso Quammen, siamo tutti quanti collegati e la cosa fondamentale in questo momento è capire come far fruttare i nostri collegamenti in maniera positiva e anziché buttarci la cacca l'uno sopra l'altro. Va bene, ti ringrazio un sacco. Saluto, è stato... Virgi. Ti saluta anche Fred, ti salutiamo e continueremo a seguirti su Tron. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Eccoci. Eccoci. Allora, Virgi, prima di introdurre Silvia, mando una canzone, magari. Che dici? Manda una canzone, Fred. Perfetto, grazie. Partiamo da una gag che ha emozionato il paese, l'abbiamo già sentito all'inizio ma lo vogliamo risentire, è il nostro presidente del Consiglio che questa settimana in conferenza stampa in diretta nazionale ha deciso di fare nomi e cognomi in relazione alle notizie fuorvianti appunto di cui parlavamo prima che sono state diffuse da due esponenti in particolare del nostro universo politico di cui noi non faremo né nomi né cognomi. Facciamo partire il contributo. Mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri. Non è stato approvato la scorsa notte, questa volta lo devo dire. Devo fare nomi e cognomi, nomi e cognomi, devo fare nomi e cognomi, nomi e cognomi, devo fare nomi e cognomi, nomi e cognomi, devo fare nomi e cognomi. Ringraziamo Mem & Jay, che tra l'altro sono anche gli autori della famosissima Io sono Giorgia, che qualcuno si ricorderà, che fanno sempre dei remix meravigliosi di quello che succede nella nostra attualità. Tra l'altro abbiamo fatto un nome, Virgi. No, un nome, non ho fatto il cognome, però ho fatto... Attenzione, perché è il problema è quando fai anche il cognome. Ah, brava, brava. Dici Giorgia, potrebbe essere una Giorgia qualsiasi. Comunque sia, come mai abbiamo deciso di introdurre questo blocco con questo particolare contributo? Perché il Presidente del Consiglio si è visto costretto a rettificare in diretta nazionale delle informazioni che erano circolate e che appunto, tema della nostra puntata, avevano fuorviato tutta una serie di seguaci di alcuni schieramenti politici. Questo succede perché anche perché la stampa nazionale in questo periodo, diciamo che non è che si sta comportando proprio nella maniera migliore possibile, soprattutto i grandi quotidiani, che a volte contribuiscono ad aumentare questa confusione. Per questo noi abbiamo deciso di invitare Silvia Boccardi, che è giornalista e video producer e sta collaborando in questo momento con Will, che è una testata molto giovane, nata da poco e che va in contrasto, diciamo, con questo modus operandi delle vecchie testate giornalistiche che a volte, soprattutto in questo periodo, si stanno rivelando abbastanza non ok. Silvia, ci sei? Sono qui. Ciao Silvia. Ciao a voi, grazie di avermi invitato. Grazie a te di essere qua nonostante tutti i nostri problemi tecnici. Io sono qua per i vostri problemi tecnici. Grazie, grazie mille, apprezzi la parte veramente fondamentale della trasmissione. Senti, tu in questo momento, da quando è iniziata la quarantena, hai coperto le notizie che avevamo nostre nazionali, anche sui media internazionali. Ma ti volevo chiedere, secondo te, dato tutto quello che ci siamo detti, come si stanno comportando i nostri media in questo clima di costante propaganda elettorale e soprattutto dal momento in cui la discussione è affidata principalmente ai social oppure a questi interventi nelle solite tribune politiche televisive? Ok, allora partirei da due presupposti. Uno è che questa è la pandemia più coperta dai media nella storia, perché ovviamente l'ultima pandemia che noi, insomma, di cui forse alcuni tra noi si ricordano è la spagnola, quindi all'inizio del secolo scorso, ci sono ancora i survivors della spagnola in giro per il mondo, e chiaramente i media che riportavano le notizie all'epoca erano molto diversi da quelli che noi abbiamo oggi, quindi c'è anche un overflow di informazioni in generale e questo va tenuto in conto nel momento in cui si parla di come i media coprono un tipo di pandemia, questo tipo di pandemia tra l'altro. È importante seguire le notizie, ma non tutti siamo degli epidemiologi, parlo di noi giornalisti, né analizziamo dati per lavoro, quindi purtroppo i nostri media hanno fatto un po' quel salto per cui all'inizio sembrava che stessimo cercando appunto di capire come girarci tra le poche informazioni che avevamo. Parlo proprio dell'inizio, dei primi di marzo, quando appunto io ho iniziato a lavorare per Deutsche Welle cercando di dare delle informazioni di quello che succedeva all'interno, prima di appunto da Codogno, poi Lombardia e infine tutta l'Italia, cercavamo di dare le informazioni che avevamo. A un certo punto è successo quello che è successo, cioè i giornali e i media italiani hanno iniziato a fare il solito lavoro, cioè quello di dare per notizie delle opinioni, opinioni che possono essere del giornalista stesso o del politico di turno. La seconda premessa con cui volevo partire è: io non ho la televisione, quindi non la guardo, non so che cosa succede nella maggior parte dei talk show e quali sono le grandi polemiche che portano avanti appunto la conversazione italiana, proprio perché non mi interessano, perché non penso che siano rilevanti a livello di informazione, penso che siano soltanto tanto rumore che non aiuta a ragionare su quello che sono i veri fatti. E io voglio i fatti, voglio sapere i facts nel senso inglese, quindi voglio avere delle notizie che siano il più vicine all'oggettività possibile. Ovviamente non ho perso il momento Mentana, così come non ho perso il momento Barbara D'Urso, inseguiamo il povero uomo sulla spiaggia. Ogni paese si sta comportando in un modo diverso, credo che ci siano appunto che noi siamo un po' in fondo alla lista, a questo come al solito. Senti, vuoi parlarci un attimo di Will, che è il media per cui stai lavorando in questo momento, e di come vi organizzate internamente, che tipo di linea avete deciso di adottare in questo momento? Sì, allora Will in generale parla pochissimo di politica interna, ma questa era la linea già precedente alla, diciamo, all'esplosione della pandemia. Ovviamente è stato dato spazio a Conte nel momento in cui c'erano appunto dei le sue telefonate agli italiani, ma è stato fatto perché aveva una rilevanza nazionale e internazionale, quindi bisognava parlarne. Tutto quello che è successo oltre a questo non è stato in alcun modo coperto. Will è un media estremamente giovane, appena nato, ma ce ne sono altri, tipo Will in giro per l'Europa, per esempio Quick Take potrebbe essere un esempio, di Bloomberg. Diciamo che Will in generale parte sempre dai fatti, quindi ci sono dei giornalisti o comunque degli autori che parlano di dei problemi molto specifici, e se ne parla, questa è una regola che appunto è stata messa, se ne parla soltanto se il tema ci è caro e l'abbiamo già in qualche modo approfondito. Quindi nel momento in cui appunto, per esempio, ci sono i giornalisti degli esteri come Cecilia, come Daniele, che sono sicuramente le persone competenti in quel campo, ci sono i giornalisti, gli autori che si occupano di economia, si occupano solo di quelle, parlano solo di quello, proprio perché è importante parlare di ciò che si sa, ecco. Sì, quindi un approccio verticale, anziché un approccio superficiale per approfondire, insomma. Esattamente, è sempre approfondimento e mai un'analisi superficiale, anche perché non avrebbe senso in questo momento, onestamente, mai in generale, ma in questo momento soprattutto. Ma ti faccio una domanda: in questo momento noi non abbiamo evidenza di quello che sta succedendo a livello di discussione politica, cioè il Parlamento non si sta riunendo banalmente, e quindi tutto quello che sappiamo arriva dalle conferenze stampa oppure appunto da quello che trapela dai social. In che modo noi possiamo capire effettivamente che programma hanno i nostri politici per noi, cioè che cosa stanno facendo? Ad esempio, adesso questa settimana sono uscite le app di controllo della diffusione del virus, ma ne è uscita una nazionale e ne è uscita una anche regionale nel frattempo. Io, cittadino, come faccio a sapere qual è l'app giusta da scaricarmi? E quali sono le fonti giuste da cui attingere per avere i fatti? Se proprio i politici stessi sono i primi che ci stanno dando delle informazioni, che un giorno è questo, un giorno è l'altro, ad esempio anche la questione delle mascherine, no? Certo. Che da un momento all'altro sono diventate obbligatorie, ma noi non sappiamo, ad esempio, neanche se ci verranno fornite, dove procurarcele, quanto dovrebbe costare una mascherina, qual è la mascherina giusta, se uno, cioè, hanno detto che noi possiamo andare in giro ad esempio con la sciarpa davanti alla faccia, che non mi sembra, mi sembra che sia... Ognuno dice la sua. Esatto. Come fai a orientarti? Allora, è sicuramente molto difficile. Diciamo che io tenderei a non dare importanza a tutto quello che ha a che vedere con i bisticci governo, comune, regione, cioè tenterei di non ascoltarli proprio. Partirei dalle informazioni, da quelle che possono essere le direttive governative, perché sicuramente quelle sono più, diciamo, hanno un livello superiore rispetto a quelle più regionali piuttosto che comunali. Ovviamente bisogna anche fare una, diciamo, un cross-checking in un certo senso, cioè vedere a più fonti quali sono le informazioni che risultano su più piattaforme. Per esempio, per me l'ANSA è una grandissima fonte di informazione. Nel momento in cui io ho continuamente le news dell'ANSA che mi dicono quello che sta succedendo, so che quel tipo di informazione è certa, quel tipo di informazione mi è stata data da una fonte certa. È importante non farsi, non perdersi in tutta una serie di informazioni che in questo momento ci vengono date anche dal punto di vista lessicale. Per esempio, quando si parla di guerra, è importante capire che quali sono le differenze tra una guerra e questa situazione, e non sempre è ovvio che, e per quale motivo, insomma, è importante capire per quale motivo i politici utilizzano questi termini. Quindi farsi delle domande è sempre utile, come dicevamo prima anche con Andrea. L'importante è la domanda, cioè io mi devo chiedere perché mi stanno arrivando queste informazioni, io devo chiedermi perché continuano a parlare dei medici come eroi, perché ne parliamo come eroi, perché così non ci chiediamo come mai sono in quattro a gestire una situazione che è difficilissima e dovrebbero gestirla in 500, perché non hanno i fondi, perché non ci sono le mascherine, perché non ci sono i respiratori. Cioè, queste sono le domande che noi dovremmo porci e cercare di trovare questo tipo di risposte, non farci guidare da quello che ci arriva. Dovrebbe essere l'inverso, cioè informarsi dovrebbe partire da noi, non da l'overflow di informazioni che riceviamo su Facebook, Instagram o sui siti dei giornali, diciamo, più grandi d'Italia. Ci sono delle parole che tu hai menzionato in questo momento che sono delle parole pericolose, diciamo, sono delle parole che vengono utilizzate in maniera pretestuosa. Ce ne sono altre che ti saltano all'occhio nel momento in cui pensi a un elenco di terminologie che sono state utilizzate in questi giorni sia dai media che dai politici in maniera fuorviante? Beh, guerra sicuramente, potenza di fuoco, queste parole che ci danno l'idea di appunto essere all'interno di un conflitto, sono dei termini che vengono utilizzati proprio perché, insomma, ovviamente ci sono molte analogie, cioè ci sono tanti morti, la routine non è più quella che era prima, l'economia è crollata, i servizi non sono diciamo al meglio. Ovviamente abbiamo delle difficoltà a reperire certi tipi di materiali, quindi è chiaro che tutti ci troviamo in una situazione in cui percepiamo un'analogia. Allo stesso tempo questo è un rischio però, perché ad esempio appunto innanzitutto un'emergenza fa sì che ci possano essere, che possano passare delle leggi di emergenza, così come è stato per Orban o per tutto quel tipo di situazioni in cui appunto un governo può dire ok, siamo in emergenza, adesso facciamo questa cosa qua, poi vediamo, magari la togliamo quando non siamo più in emergenza, magari no. Dall'altra parte anche il fatto di sentirci in guerra incoraggia tutta una serie di atteggiamenti che possono essere appunto la paura, il panico, la violenza, devo andare al supermercato a prendere più cose possibili e rubarle al mio vicino di casa perché se io posso sopravvivere, lui no, devo riempirmi la casa di armi perché a un certo punto, cioè questo tipo di situazioni che stiamo vedendo in giro per il mondo, anche in America, soprattutto in America, fa paura e questo è quello che viene portato da un certo tipo di comunicazione, un certo tipo di lessico. E quindi se tu dovessi farmi un elenco delle fonti giornalistiche attendibile a livello anche internazionale, cioè se tu prima hai detto che in Italia siamo tra i peggiori a livello di media, come al solito noi ci classifichiamo sempre nei posti più alti della classifica, al contrario, tu che media segui ad esempio a livello internazionale e chi si sta comportando bene in questi giorni, che sta facendo un'ottima informazione secondo te? Allora, sì, è vero che l'Italia non si comporta bene, è vero anche che ci sono comunque, cioè, per esempio, io penso che Rai News comunque sia un buon organo di informazione se uno vuole guardare la TV, per esempio, e informarsi lì. Altrimenti, vabbè, in giro per il mondo ce ne sono tantissimi, ovviamente è interessante guardarsi anche dalla lente dei giornali stranieri, cioè se io devo imparare qualcosa sull'Italia è sicuramente interessante anche andare a vedere come l'Italia viene dipinta da un altro giornale straniero, quindi andare a vedere anche di che cosa come parlano dell'Italia i giornali stranieri, quindi New York Times piuttosto che il New York, piuttosto che BBC eccetera. Sicuramente vabbè, in Europa abbiamo i soliti, cioè BBC, France 24, Deutsche Welle, il Guardian, sono sicuramente delle fonti di informazioni fondamentali. L'autorevolezza che deriva da che vediamo su questi media deriva anche dal tipo di autorevolezza che c'è nelle istituzioni, cioè se noi vediamo come Angela Merkel ha spiegato in 10 minuti perché i tedeschi devono stare a casa, in un modo molto semplice e molto diretto e molto adulto in qualche modo, cioè parlando degli adulti, ci fa capire perché noi invece siamo con il favore delle tenebre e i meme che prendono in giro giustamente il nostro Presidente del Consiglio, perché abbiamo un modo di affrontare, diciamo, la pandemia che è completamente diversa da quella di altri paesi, quindi i media lo riportano. altri media che sicuramente possono essere interessanti in questo momento sono quelli asiatici, quindi andare a vedere per esempio il South China Morning Post piuttosto che lo Straits Times di Singapore, andare a vedere come parlano loro di quello che è la pandemia è interessante. Certo. E poi in Italia ce n'è di media da seguire. Beh, Will sicuramente è uno di questi, ma anche il Sole 24 Ore è una fonte di informazione corretta, Pagella Politica, IRPI Media è appena nato e stanno già facendo un ottimo lavoro di inchieste, insomma ce n'è nel panorama. Quindi al posto di guardare i telegiornali della TV di Stato, che comunque danno dei servizi che li abbiamo passati anche nelle scorse puntate e sono abbastanza divertenti, ecco, però i telegiornali sono stati i primi anche ad essere invasi, diciamo, dalla partigianità politica, è meglio che ci informiamo su queste fonti che ci hai appena elencato. Assolutamente. Bene. Grazie mille Silvia. Fred, grazie, hai qualcosa Silvia. Da aggiungere? No, in realtà sono molto commosso all'intervento di Silvia, e sono sempre molto commosso ai nostri ospiti in realtà. Sì. Diciamo che sono la forza di questo programma. Sì, esatto. Grazie dei nostri problemi con la tecnologia. Ti ringrazio un sacco, Silvia. Grazie per grazie essere a voi. Ciao, Silvia. Ospite. Grazie. Buon lavoro. Ciao a voi. Buon lavoro. Ecco, Fred. Allora, insomma, siamo rimasti solo noi. Siamo rimasti soli. Siamo quasi in chiusura. Vogliamo ricordare che comunque sia, mentre noi siamo qua a dire cazzate, ci sono dei ragazzi che continuano a portare da mangiare a casa delle persone e a fornire un servizio fondamentale in questo momento, soprattutto per chi non può permettersi di uscire di casa o per chi addirittura non può permettersi neanche di acquistare dei beni alimentari o per chi una casa non ce l'ha, quindi... essendo che le mense per i poveri sono state chiuse anche loro per via del lockdown, ci sono un sacco di persone senza tetto che si ritrovano a non sapere neanche dove andare e le brigate volontarie stanno facendo un lavoro capillare sulla città di Milano, quindi noi le ringraziamo ogni giorno, è notizia recente che di solo Lambretta ha portato più di 1000 pasti in giro per la città. Quindi... Esatto, chiudiamo... Chiudiamo appunto ricordando il grande lavoro che stanno facendo le brigate volontarie per l'emergenza. Faccio solo una piccola incisione, incisione. Madonna. Dopo faccio anche un'incisione, te la mando. Comunque faccio un piccolo inciso. In zona 4, che è la zona dove sta anche Macao, la brigata Ho Chi Minh ha iniziato a fare la raccolta alimentare, quindi per tutti quelli, per i numerosissimi ascoltatori e ascoltatrici zona 4, insomma... contribuite come potete e se potete a questa colletta alimentare e ricordo anche la Camera Non Lavoro che sta facendo un grande lavoro tra l'altro supporto dal punto di vista sindacale e di ascolto e supporto psicologico per tutti i professionisti della sanità e poi Virgi volevo anche ricordare Avant Gardening, insomma, se so che è brutto parlare di cose che uno fa, però l'hai fatta tu, quindi ne parlo io. Alle 17, esatto, così almeno alle 17 partirà questa maratona di 3 giorni dove ci saranno insomma un sacco di contributi da parte di artisti, amici e professionisti di vario genere con il cui ricava con la possibilità di anche fare donazioni e il ricavato andrà a supporto delle brigate. Vuoi aggiungere qualcosa Virgi visto che sei fra le fautrici di questa iniziativa? Che il festival avverrà su Twitch, appunto perché Twitch è la piattaforma che ci permetteva con più semplicità di gestire innanzitutto tutto questo flusso di dati che avremo e poi di creare un bottone per le donazioni molto comodo che ti porta direttamente a un link di PayPal su cui puoi donare direttamente sul conto PayPal delle brigate, quindi questo ci sembrava il modo più immediato per supportare grazie a una rete di persone che conosciamo e che abbiamo sempre frequentato nel mondo pre-Covid per supportare le brigate con un lavoro diciamo meno concreto del loro, più astratto, più concettuale, ma sempre qualcosa. Quindi insomma alle 17 partiamo su Twitch. Ok, perfetto. Maggiori informazioni le trovate sull'Instagram di Avangardening, @avangardening con 3G, credo. Sì, non c'era con meno G, raga. Va bene, vi salutiamo, mandiamo l'ultima canzone, sempre dedicata a DJ Aldo Virus, che anche oggi non è stato con noi, ma tornerà presto, mi hanno detto. E fonti sicure, mi hanno detto che tornerà presto. Ti saluto Virgi, ringrazio ancora i nostri ospiti, ringrazio i nostri numerosissimi ascoltatori e ci vediamo settimana prossima con Notizie Virali, quinta puntata, e alle 17 con l'inizio del festival Avangardening. Ciao! Abbiamo registrato! E vai! Sarò, se ci sarai, saremo come gli occhi tuoi. La musica alzerà i toni e forte in alto brillerà. Accenderà luce e colore e nel mio cuore esploderà solo per te. Se non ci sei o non ci sarai, la nebbia fitta scenderà. La pioggia spegnerà il colore, la notte buia calerà, oscurerà luce e colore, e nel mio cuore.